Capitolo 2. I ragazzi. Mentre Nat fa una lunga dormita, io racconterò ai miei piccoli lettori qualcosa dei ragazzi fra i quali egli si trovò al suo risveglio. Cominciamo con i nostri vecchi amici. Franz era un ragazzone alto, sui 16 anni, un vero tedesco, grosso, biondo e studioso, docile poi, gentile e appassionato di musica. Suo zio lo stava preparando per l'università e sua zia per una futura e felice vita domestica, educandolo alla cortesia, all'amore per i bimbi, al rispetto per le donne, sia vecchie che giovani, e ai mille modi di rendersi utile in casa. Egli era il suo braccio destro in tutte le occasioni, tenace, buono, paziente, e voleva bene a quella sua zia così allegra come ad una madre che tale essa aveva cercato di essere per lui. Emil era tutt'altro tipo, impulsivo, irrequieto e intraprendente, appassionato della vita sul mare, per il sangue degli antichi vichinghi che gli scorreva nelle vene e che non era facile domare. Suo zio gli aveva promesso di lasciargli seguire la sua vocazione quando avesse 16 anni e intanto gli faceva studiare l'arte della navigazione, gli dava da leggere libri su famosi ammiragli ed eroi, lasciandolo vivere come un ranocchio nel fiume, nello stagno e nel ruscello appena finite le lezioni. La sua camera sembrava la cabina di un vascello da guerra, perché vi regnava l'ordine più scrupoloso ed era piena di arnesi nautici e militari. Il capitano Kidd, il famoso navigatore e pirata scozzese vissuto nella seconda metà del 1600, lo entusiasmava e il suo divertimento favorito era di camuffarsi come quel pirata gentiluomo, urlando a squarciagola bellicose canzoni di mare. Non ballava altro che danze marinaresche, imitava camminando l'andatura dondolante dei marinai e usava il frasario d'un uomo di mare, fin dove suo zio glielo permetteva. I ragazzi lo chiamavano Commodoro e andavano orgogliosi della sua flotta che metteva una nota chiara sullo stagno, subendo disastri che avrebbero sbigottito qualsiasi ammiraglio, ma non un ragazzo divorato dalla passione del mare. Demi era una prova evidente degli effetti di un'educazione amorevole e comprensiva, perché in lui anima e corpo armonizzavano efficacemente. Alla raffinatezza naturale che è frutto dell'ambiente domestico doveva le sue maniere dolci e semplici. Sua madre, Meg, gli aveva instillato nel cuore sentimenti puri e teneri. Suo padre ne aveva curato lo sviluppo fisico, irrobustendo il suo piccolo corpo con cibi sani, esercizi fisici e buone dormite, mentre il nonno March aveva coltivato la sua giovane intelligenza con la tenera saggezza di un moderno Pitagora, senza faticarla con lezioni lunghe e pesanti, imparate a pappagallo, ma aiutandola a svilupparsi con la stessa bella naturalezza delle rose sotto l'effetto del sole e della rugiada. Non vogliamo con questo dire che fosse un ragazzo perfetto, ma i suoi non erano difetti antipatici. E siccome aveva appreso presto il segreto di sapersi controllare, non restava in balia dei desideri e delle passioni come altre povere creature che sono poi punite per aver ceduto a tentazioni contro le quali si trovavano senza difesa. Era un ragazzo quieto e un po' strano, serio, eppure allegro, inconsapevole della sua non comune intelligenza e della sua bellezza e sempre pronto invece a riconoscere negli altri ragazzi. I genitori, vedendolo così appassionato per la lettura e col cervello pieno di vivaci fantasie, frutto di una forte immaginazione e di una natura contemplativa, si erano sforzati di controbilanciare queste sue tendenze con cognizioni pratiche e con una oculata scelta dei suoi compagni, perché non avesse a divenire uno di quei fanciulli pallidi e precoci che formano talora lo stupore e la delizia di una famiglia, ma appassiscono come fiori di serra, perché la loro giovane anima fiorisce troppo presto e le manca un corpo robusto che la trattenga saldamente radicata sulla terra. Perciò Demi era stato trapiantato a Plumfield e vi si era così bene ambientato che Meg, John e il nonno erano molto soddisfatti della decisione presa. Il contatto con altri ragazzi aveva messo in luce il lato pratico del suo carattere, sollevato il suo spirito e spazzato via le belle ragnatele che tanto gli piaceva di tessere nel suo cervellino. che, anzi, quando andava a casa, scandalizzavano un poco sua madre, sbattendo gli usci, esclamando con grande enfasi «Perbacco!» e chiedendo stivali alti e forti che zoccolassero come quelli di suo padre. John, invece, ne era felice, rideva al fuoco di fila delle sue osservazioni, gli regalò gli stivali, dicendo soddisfatto «Così va bene, zoccoli pure. Io voglio che mio figlio sia un tipo virile e questa temporanea rozzezza non gli farà male». Poco per volta poi lo ringentiliremo. E quanto allo studio, se lo verrà beccando da sé, come i piccioni beccano i piselli. Dunque, inutile forzarlo. Daisy era affascinante e deliziosa. C'erano in germe nell'animo suo tutte le migliori qualità della donna, perché somigliava alla sua dolce mamma e accudiva con gioia alle faccende domestiche. Aveva tutta una famiglia di bambole che allevava in modo esemplare. Non sapeva stare un minuto senza il suo cestino da lavoro e cuciva così bene che Demi tirava fuori spesso il suo fazzoletto per farne ammirare l'orlo eseguito alla perfezione. La piccola Josie aveva una bella sottanina di flanella cucita dalla sorellina. Le piaceva trafficare nella dispensa, riempire le saliere, disporre bene le posate sulla tavola e ogni giorno spolverava i mobili del salotto. Demi la prendeva un po' in giro per questa sua passione, ma era molto contento che gli tenesse in ordine le sue cose, gli prestasse sempre l'opera delle sue agili dita, lo aiutasse a studiare le lezioni, perché essi andavano di pari passo negli studi senza che vi fosse fra loro ombra alcuna di rivalità. Si volevano un gran bene, che cresceva di anno in anno, e nessuno osava ridere delle maniere affettuose di Demi verso sua sorella Daisy. Egli era sempre pronto a difenderla. E non arrivava a capire perché certi ragazzi si vergognassero di dichiarare francamente tutto l'affetto che avevano per le loro sorelle. Daisy adorava il suo gemello, che riteneva il ragazzo più straordinario del mondo, e ogni mattina, ancora avvolta nella sua piccola veste da camera, trotterellava a bussare alla sua porta, dicendogli con tono materno: «Su, caro, è quasi l'ora di colazione, ed eccoti il colletto pulito». Rob era un omettino dinamico che sembrava aver scoperto il segreto del moto perpetuo perché non stava mai fermo. Per fortuna non era troppo birichino e neanche troppo audace, quindi si teneva fuori dai pasticci, oscillando fra il babbo e la mamma come un piccolo pendolo affettuoso dal vivace tic-tac perché non stava zitto un minuto. Teddy era ancora troppo piccino per avere una parte molto importante nelle faccende di Plumfield, pure aveva la sua piccola sfera d'azione, entro la quale sapeva muoversi assai bene. Chi non sente ogni tanto il bisogno di fare una carezza? E Teddy era sempre pronto a riceverla, perché gli piaceva molto essere baciato e coccolato. Era difficile che la signora Joe si muovesse senza tirarselo dietro, quindi egli cacciava il nasetto in tutte le faccende domestiche, che non sembravano andare meno bene per questo, perché a Plumfield i bimbi erano adorati. Dick Brown e Adolphus, o Dolly Pettingill, erano due ragazzi di 8 anni. Dolly incheccava tremendamente, ma andava via via migliorando, perché a nessuno era permesso burlarlo. Inoltre la signora Baer, mamma Baer, ovvero Joe, cercava di correggerlo, facendolo parlare molto adagio. Era un buon ragazzetto, comune e punto interessante, ma a Plumfield sembrava fiorire e trascorreva le giornate fra i suoi doveri e gli svaghi, sereno e contento. Dick Brown aveva la disgrazia di essere gobbo, ma portava la sua pena così allegramente che una volta Demi gli chiese con questo strano modo: «La gobba mette la gente di buon umore? Se così fosse ne vorrei una anch'io». Dick scherzava sempre e faceva del suo meglio per essere come gli altri ragazzi, perché nel suo debole corpicino albergava un animo coraggioso. Appena giunto era stato molto sensibile alla sua disgrazia, ma presto imparò a dimenticarla perché nessuno osava ricordargliela. E papà Baer aveva punito un ragazzo per averlo deriso. «Iddio non ci bada, perché la mia anima è diritta, anche se la mia schiena non lo è», aveva detto fra i singhiozzi a quello che lo tormentava. E i Baer, alimentando in lui quell'idea, giunsero presto a persuaderlo che anche le persone amavano l'animo suo senza badare al suo corpo, salvo che per compatirlo e aiutarlo a sopportare la sua pena. Una volta che giocava con gli altri al serraglio, uno gli chiese: «Che animale vuoi essere, Dick?» Oh, io sono il dromedario, non vedi la gobba sulla mia schiena? Rispose lui ridendo. E sarai appunto il mio caro piccolo dromedario che non porterà pesi, ma marcerà accanto all'elefante alla testa del corteo, disse Demi, che stava organizzando lo spettacolo. Spero che anche gli altri saranno buoni con questo poveretto, come i miei ragazzi hanno imparato ad essere, disse mamma Jo, molto soddisfatta del successo del suo insegnamento, mentre Dick le passava davanti trotterellando simile a un piccolo dromedario, molto felice ma molto debole, accanto al robusto Cole che rappresentava con massiccia fedeltà l'elefante. Jack Fort era un ragazzo svelto e astuto, che avevano mandato a Plumfield perché la retta era modesta. Molti avrebbero potuto ritenerlo un tipo assai promettente, ma a Papa Bear non piaceva quel suo modo di prendere il mondo troppo all'americana. E trovava la sua scaltrezza prematura e la sua passione per il denaro malanni molto più gravi del tartagliare di Dolly o della gobba di Dick. Ned Barker non differiva da migliaia di altri ragazzi di 14 anni, tutto gambe, storditaggine e turbolenza. Infatti in casa lo chiamavano la catapulta e si aspettavano sempre di vederlo inciampare nelle sedie, urtare nelle tavole e gettare a terra i piccoli oggetti vicini a lui. Millantava molto quello che avrebbe potuto fare, ma era raro che facesse qualcosa per provare la sua capacità. Era tutt'altro che coraggioso e un po' proclive a raccontar frottole. Prepotente coi piccoli, strisciava davanti ai grandi. Non lo si poteva dire addirittura cattivo, ma era uno di quei tipi facili a lasciarsi traviare. George Cole era stato guastato da una madre troppo indulgente che lo rimpinzava di dolci fino a farlo star male e poi lo riteneva troppo delicato per studiare, cosicché a 12 anni era un ragazzo pallido, gonfio, ottuso, scontroso e pigro. Un'amica le aveva consigliato di mandarlo a Plumfield, dove fece presto a svegliarsi perché i dolci vi erano permessi di rado, vi si faceva molto moto e lo studio era reso così piacevole che Staffy, come lo chiamavano, si lasciò pian piano allettare, finché sbalordì la sua trepida mamma coi progressi compiuti e la convinse che davvero nell'atmosfera di Plumfield doveva esserci qualcosa di speciale. Billy Ward era quello che gli scozzesi chiamano, con pietosa perifrasi, un innocente, perché a 13 anni era come un bimbo di 6, di un'intelligenza eccezionale. Suo padre lo aveva spinto avanti troppo in fretta, caricandolo di lezioni difficili, tenendolo chino sui libri 6 ore al giorno, aspettandosi che assorbisse la cultura come un'oca di Strasburgo i cibi di cui è ingozzata. Persuaso di fare il suo dovere, per poco non uccise il ragazzo, cui una febbre cerebrale procurò una triste vacanza. E quando guarì, il suo cervello, troppo forzato, cedette, e la sua mente si ridusse come una lavagna su cui sia passata la spugna, lasciandola vuota. Fu una lezione terribile per l'ambizioso padre, non potendo sopportare la vista del suo figliuolo, che, dopo aver dato tante belle promesse di sera, divenuto un povero idiota, lo mandò a Plumfield, con ben poca speranza che potesse riprendersi, ma sicuro che vi sarebbe trattato bene. Billy era docile e mite, ed era una gran pena vedere con quale impegno cercasse, quasi brancolando nel buio, di riacquistare quell'istruzione che gli era tanto costata. Continuava a studiare l'alfabeto, dicendo con orgoglio A e B, persuaso di distinguere le lettere, ma il giorno dopo non restava più nulla nella sua memoria e doveva ricominciare da capo. Papà Bayer aveva una pazienza inesauribile con lui, non lasciandosi scoraggiare dal compito apparentemente disperato. Senza valersi dei libri, cercava con gran dolcezza di dissipare la nebbia che gli offuscava il cervello e di rendergli quel poco di intelligenza indispensabile perché cessasse di essere un peso e una sorgente di dolore per i suoi. Dal canto suo, mamma Bayer tentava ogni mezzo per rafforzare la sua salute e tutti i ragazzi impietositi del suo caso erano buoni con lui. Egli non amava i loro giochi movimentati, ma stava seduto per ore e ore osservando le tortore, oppure scavava buche per Teddy fino a soddisfare quella mania del piccino, o andava dietro a Silas, l'uomo di fatica, guardandolo lavorare, perché il bravo Silas era molto buono con lui. E Billy, se dimenticava le lettere dell'alfabeto, ricordava bene i volti di chi gli dimostrava simpatia. Tommy Banks era il monello della scuola. il più tremendo monello che sia mai esistito, malizioso come una scimmia, ma così buono di fondo che era impossibile non perdonargli le sue gherminelle. Così sventato che le sue parole erano inconsistenti come il vento. Eppure così sinceramente pentito dopo ogni sua malefatta che bisognava per forza ridere sentendolo fare i voti più solenni di emendarsi o proporre contro di sé i più straordinari castighi. Il signore e la signora Baer, papà e mamma Baer, erano sempre preparati a qualche catastrofe, o che Tommy stesso si rompesse il collo o che facesse saltare in aria tutta la casa con polvere da sparo. E la bambinaia aveva un cassetto speciale nel quale teneva bende, cerotti e pomate destinati a lui, perché Tommy poteva sempre venire riportato a casa mezzo morto, ma niente ancora era riuscito ad ammazzarlo, e da ogni batosta egli si risollevava più intraprendente che mai. Il giorno stesso del suo arrivo s'era portato via la punta di un dito con la falciatrice. E durante la settimana era caduto dal tetto del capannone, s'era salvato a stento da una gallina infuriata che voleva beccargli gli occhi vedendolo avvicinarsi troppo ai suoi pulcini, e s'era buscato qualche scappellotto da Asia che lo aveva colto mentre si dava alla pazza gioia di scremare il recipiente del latte con una mezza torta rubata. Ma nonostante insuccessi e sgridate, continuava imperterrito a combinarne d'ogni colore. Tanto che nessuno si sentiva sicuro da lui. Se non sapeva le lezioni, aveva sempre pronta qualche scusa strampalata. E siccome non mancava di intelligenza per lo studio, e sapeva inventare lì per lì delle risposte anche quando non era preparato, a scuola non se la cavava male, ma fuori dalla scuola, figli miei, come ci dava dentro. Una volta legò la grassa Asia a un palo con la sua stessa fune da stendere la biancheria e ve la lasciò una mezz'ora a mangiarsi il fegato e a brontolare proprio un lunedì mattina quando c'era più lavoro. Un'altra volta fece sdrucciolare un soldo arroventato giù per la schiena della graziosa cameriera Marianne mentre serviva a tavola un giorno che c'erano a pranzo degli invitati. E la povera ragazza rovesciò la minestra e si precipitò spaventata fuori della stanza, dando a tutti l'impressione che fosse diventata matta. Fissò una secchia d'acqua in cima a un albero con un pezzo di nastro legato al manico e quando Daisy, attirata da quel pennoncello di vivace colore, cercò di tirarlo giù, si prese una doccia che sciupò il suo bel vestitino pulito e ferì molto la sua suscettibilità. Quando la sua nonna venne a prendere il tè, mise nella zuccheriera dei sassolini bianchi e la vecchia signora non capiva perché lo zucchero non si sciogliesse nella sua tazza, ma era troppo educata per dir nulla. In chiesa fece passare del tabacco ai compagni e cinque di essi starnutirono con tale violenza che dovettero uscire. D'inverno scavava solchi sul terreno e poi li riempiva d'acqua, che congelandosi provocava numerosi capitomboli. E ridusse quasi alla disperazione il povero Silas, attaccando bene in vista i suoi stivali, perché aveva dei piedi enormi dei quali si vergognava moltissimo. Convinse il fiducioso Dolly a legarsi un filo a uno dei denti che tentennavano, lasciandolo poi pendere dalla bocca quando andava a letto perché lui potesse levarglielo senza che si accorgesse dell'operazione che gli faceva tanta paura. Ma il dente non volle saperne di venir via al primo strattone e il povero piccino si svegliò terrorizzato e da quel giorno perse tutta la sua fede in Tommy. L'ultima sua prodezza era stata di dare alle galline della crusca inzuppata di rum, il che le aveva rese un po' brille, con grande scandalo di tutti gli altri volatili, perché le vecchie rispettabili galline andavano in giro barcollando, beccando e chiocciando come avvinazzate, e tutti ridevano come matti a quel grottesco spettacolo. Finché Daisy, mossa a compassione, le chiuse nella stia a smaltire la loro sbornia. Questi erano i giovani personaggi che vivevano insieme nel miglior modo possibile per 12 ragazzi, studiando e giocando, lavorando e litigando, combattendo le cattive inclinazioni e coltivando le buone qualità, secondo i vecchi metodi tanto efficaci. In altre scuole forse i ragazzi imparavano più nozioni dai libri, ma meno di quella saggezza che dà agli uomini il loro vero valore. Il latino, il greco e la matematica sono tutte bellissime cose, ma secondo l'opinione di papà Baer, il conoscersi bene, il sapersela sbrogliare da soli e l'essere capaci di dominarsi erano ben più importanti e per questo metteva ogni cura nell'esercitarvi i suoi scolari. Non mancava chi scuotesse la testa alle sue idee, ma dovevano pure riconoscere che l'educazione e il carattere dei ragazzi se ne avvantaggiavano straordinariamente. Del resto, come aveva detto a Nat, mamma Jo, quella era una scuola originale.